Si verso la periferia. Ad alta voce Marco Foschi legge Doppio sogno di Arthur Schnitzler, traduzione di Giuseppe Farese. Le carrozze passarono per la Alzerstrasse, poi sotto un viadotto ferroviario, dirigendosi verso la periferia, e proseguirono per strade secondarie, deserte e male illuminate. Fridolin pensò all'eventualità che il cocchiere perdesse le tracce della carrozza funebre. Ma ogni volta che dal finestrino aperto sporgeva la testa nell'aria insolitamente calda, vedeva sempre l'altra vettura a una certa distanza davanti a loro, il cocchiere dall'alto cilindro nero immobile a cassetta. Potrebbe anche finire male, pensò Fridolin mentre sentiva ancora il profumo di rose e cipria del seno di Pierrette. Quale strano romanzo ho mai sfiorato? Si domandò. Forse non sarei dovuto andare via. Non dovevo lasciarla sola. Ma dove mi trovo ora? Salivano lentamente passando fra ville modeste. Ora Fridolin credette di orientarsi. Durante le sue passeggiate. Forse avevano preso la strada del Kalitzinberg. A sinistra nella valle vide brillare, sfumate nella nebbia, le mille luci della città. Sentì rumore di ruote e guardò indietro dal finestrino. Fu contento che due vetture lo seguissero, così non poteva destare alcun sospetto nel cocchiere della carrozza funebre. All'improvviso la carrozza voltò di lato, con un poderoso scossone, e cominciò a scendere, come in una gola, fra cancelli, muri e pendii. Fridolin pensò che era ormai tempo di mascherarsi. Si tolse la pelliccia e indossò il saio, proprio come usava fare ogni mattina nel suo reparto d'ospedale quando si infilava il camice. E si sentì come sollevato al pensiero che fra poche ore, se tutto andava bene, avrebbe fatto il suo giro, come ogni giorno, fra i letti dei suoi malati, un medico pronto a soccorrere. La carrozza si fermò. Se non scendessi affatto, pensò Fridolin, e tornassi invece subito indietro. Ma dove andare? Dalla piccola Pierrette? Dalla donnina nella Buchfeldgasse? O da Marianne, la figlia del frutto? O per Tarsa? E si accorse con leggero raccapriccio che nessun altro posto lo attirava meno di casa sua. O era così perché la strada di casa gli sembrava la più lunga? No, no, non posso tornare indietro, pensò. Avanti in ogni caso, anche a costo di morire. Rise della parola grossa, ma non si sentiva certo in vena di scherzare. Il cancello di un giardino era spalancato. La carrozza funebre dinanzi a lui si inoltrò più giù nella gola o nell'oscurità che gli faceva tale effetto. Nachtigall comunque doveva essere già sceso. Fridolin smontò a sua volta in fretta, ordinò al cocchiere di attendere il suo ritorno sulla curva prima della discesa, anche se si tratteneva a lungo. E per sentirsi più sicuro, lo pagò largamente in anticipo e gli promise la stessa somma per il viaggio di ritorno. Intanto giunsero le carrozze che seguivano la sua. Dalla prima Fridolin vide scendere una donna velata. Poi entrò nel giardino e si mise la mascherina. Uno stretto sentiero, illuminato dalla casa, conduceva al portone. Due battenti si spalancarono e Fridolin si trovò in un piccolo atrio bianco. Fu accolto da un suono di armonium. A destra e a sinistra c'erano due servitori in livrea scura, il volto coperto da una mascherina grigia. «Parola d'ordine?» gli fu sussurrato a due voci. «Danimarca!» rispose. Uno dei servitori prese la sua pelliccia e sparì in una stanza attigua. L'altro aprì una porta e Fridolin entrò in un salone in penombra, quasi buio, le pareti rivestite di seta nera. Alcune maschere, tutte in costumi ecclesiastici, andavano qua e là. Erano circa 16-20 persone, monaci e monache. L'armonium suonava una melodia sacra italiana che, crescendo dolcemente, sembrava scendere dall'alto. In un angolo della sala era fermo un gruppo di 3 monaci e 2 monache lo guardarono di sfuggita, ma distolsero subito lo sguardo, quasi di proposito. Fridolin si accorse di essere l'unico ad avere il capo coperto, si tolse il cappello da pellegrino e passeggiò avanti e indietro, cercando di dare il meno possibile nell'occhio. Un monaco gli sfiorò il braccio e salutò con un cenno del capo, ma da dietro la mascherina uno sguardo penetrante si fissò per un secondo negli occhi di Fridolin. Fu avvolto da un profumo strano, eccitante, come di giardini del sud. Un braccio lo sfiorò di nuovo, questa volta quello di una monaca. Come gli altri portava anche lei un velo nero che le cingeva la fronte, il capo e la nuca. Sotto il merletto di seta nera della mascherina splendeva una bocca rosso sangue. «Ma dove mi trovo?» pensò Fridolin. «Tra folli, tra congiurati. Sono capitato in una riunione di qualche setta religiosa». Avevano forse pagato Nachtigal perché portasse con sé un non iniziato di cui volevano farsi beffe. Tuttavia, per essere quello uno scherzo di carnevale, tutto gli sembrò troppo serio, troppo monotono, troppo sinistro. All'armonium si era aggiunta una voce femminile, un'antica aria religiosa italiana risuonò nella sala. Erano tutti fermi, sembravano ascoltare. Anche Fridolin si abbandonò per un attimo a quella melodia meravigliosa e crescente. Improvvisamente una voce di donna sussurrò alle sue spalle: «Non si volti, fa ancora in tempo ad allontanarsi. Lei è estraneo all'ambiente. Se la scoprissero, per lei finirebbe male». Fridolin trasalì. Per un secondo pensò di seguire l'avvertimento, ma la curiosità, l'attrazione, soprattutto il suo orgoglio, furono più forti di ogni riflessione. «Ormai sono giunto fino a questo punto», pensò. «Finisca come vuole». E scosse la testa in segno di diniego, senza voltarsi. La voce dietro di lui sussurrò: «Mi dispiacerebbe per lei». Ora si voltò. Vide la bocca rosso sangue luccicare attraverso i merletti. Due occhi scuri si immersero nei suoi. «Resterò», disse con un tono eroico, a lui stesso ignoto, e volse di nuovo altrove lo sguardo. Il canto cresceva meravigliosamente. Il suono dell'armonium aveva ora un timbro nuovo, non più religioso ma profano, e scrosciava esuberante come un organo. Guardandosi intorno, Fridolin notò che tutte le monache erano sparite e in sala si trovavano solo monaci. Frattanto anche la voce aveva abbandonato la sua cupa serietà e con un abile gorgheggio increscendo si era trasformata in un canto limpido ed esultante, ma invece dell'armonium aveva preso a suonare mondano e sguaiato un pianoforte. Fridolin riconobbe subito il tocco selvaggio ed eccitante di Nachtigal. La voce femminile, poco prima così nobile e dolce, con un acuto e voluttuoso grido finale si era, per così dire, librata in aria e dissolta nell'eternità. A destra e a sinistra si erano aperte delle porte. Da un lato Fridolin riconobbe i contorni sfumati di Nachtigal al pianoforte. Nella sala di fronte, illuminata invece di una luce accecante, c'erano donne immobili. Il capo, la fronte, il collo avvolti in veli scuri, mascherine nere di pizzo sul viso, ma per il resto completamente nude. Gli occhi di Fridolin erravano cupidi, dalle formose alle snelle, dalle delicate alle splendide e fiorenti. E poiché ognuna di quelle figure nude restava pur sempre un segreto, e dalle mascherine nere grandi occhi si volgevano raggianti verso di lui come il più insolubile degli enigmi. L'ineffabile piacere della vista gli si trasformava in un quasi insopportabile tormento di desiderio. Ma anche gli altri dovevano provare la stessa sensazione. I primi sospiri estasiati si mutarono in gemiti, che sembravano originati dal profondo dolore. Da qualche parte si levò un grido, e improvvisamente, come se fossero inseguiti, i monaci lasciarono la sala in penombra, non più vestiti delle loro tonache, ma in festosi costumi da cavalieri bianchi, gialli, azzurri, rossi, e si precipitarono tutti verso le donne che li accolsero con risate furenti, quasi malvagie. Fridolin era l'unico ad essere rimasto in abito da monaco e si allontanò furtivamente, piuttosto impaurito, nell'angolo più lontano, dove si trovò vicino a Nachtigall, che gli volgeva le spalle. Fridolin vide che Nachtigall aveva una benda sugli occhi, ma allo stesso tempo credette di notare che dietro quella benda i suoi occhi si fissassero penetranti nel grande specchio di fronte nel quale i variopinti cavalieri volteggiavano con le loro ballerine nude. A un tratto una delle donne si fermò accanto a Fridolin e sussurrò, poiché nessuno parlava forte, come se anche le voci dovessero restare un segreto: «Perché così solo? Perché non partecipi al ballo?» Fridolin vide che da un altro angolo due gentiluomini lo osservavano insistentemente e sospettò che la creatura accanto a lui, snella e dal corpo fanciullesco, fosse stata mandata per metterlo alla prova e tentarlo. Ciononostante, aprì le braccia e voleva tirarla a sé, quando un'altra delle donne si staccò dal suo ballerino e corse verso Fridolin. Capì subito che si trattava di quella che voleva inseguire la propria prima. La donna fece finta di vederlo per la prima volta e sussurrò, ma così chiaramente che la si dovette udire anche nell'angolo opposto: «Sei tornato finalmente!» E ridendo divertita: «Non c'è più nulla da fare, sei stato scoperto!» Poi, rivolto alla ragazza dal corpo fanciullesco: «Concedimelo solo per 2 minuti, dopo potrai averlo di nuovo. Fino al mattino, se vuoi.» E più a bassa voce, quasi con gioia: «È lui, è proprio lui!» L'altra, stupita: «Davvero?» E raggiunse con passo leggero i cavalieri. «Non fare domande», disse ora Fridolin la donna che gli era rimasta accanto, «e non meravigliarti di nulla. Ho cercato di sfiarli, ma ti dico subito che non mi riuscirà ancora per molto. Fuggi prima che sia troppo tardi, e ogni attimo può essere troppo tardi. Bada che non seguano le tue tracce. Nessuno deve venire a sapere chi sei. La tua tranquillità, la pace della tua esistenza sarebbero finite per sempre. Vai!» «Ti rivedrò?» «Impossibile!» «Allora resto!» Il suo corpo nudo fu scosso da un tremito che gli si trasmise e quasi gli ottenebrò i sensi. «Non può essere in gioco più della mia vita», disse, «e in questo momento tu vali la mia vita!» Le prese le mani e cercò di attirarla a sé. La donna sussurrò di nuovo, come disperata: «Va!» Fridolin rise e sentì l'eco del suo riso come in sogno. «Vedo bene dove mi trovo. Non vi siete certo riuniti solo perché uno si inebri a guardarvi. Tu vuoi soltanto beffarti di me, per farmi impazzire del tutto. Fra poco sarà troppo tardi. Va!» Egli non voleva ascoltarla. «Non ci sono forse delle stanze segrete in cui si ritirano le coppie che hanno fatto amicizia? O alla fine si congederanno tutti con un cortese baciamano? Non fanno certo questa impressione.» E accennò alle coppie che al suono furioso del pianoforte continuavano a ballare nella sala accanto, splendente di luce, corpi bianchi, ardenti, stretti in sete azzurre, rosse, gialle. Gli sembrò che ora nessuno si curasse di lui e della donna che aveva accanto. Erano completamente soli, nel salone centrale semibuio. «Speranza vana!» ella mormorò. «Qui non ci sono stanze, è l'ultimo minuto utile. Fuggi! Vieni via con me!» La donna scosse violentemente la testa come disperata. Fridolin rise di nuovo e non riconobbe il suo riso. «Vuoi prendermi in giro? Questi uomini e queste donne sarebbero dunque venuti qui solo per eccitarsi reciprocamente e poi respingersi? Chi può proibirti di venire via con me, se vuoi? Ella trasse un profondo respiro e chinò il capo. Ah, ora capisco, disse lui. È questa la pena che avete stabilito per chi si introduce qui senza invito. Non ne avreste potuto escogitare una più crudele. Risparmiamela. Graziami. Infliggimi un'altra punizione che non sia quella di dover andare via senza di te. Sei pazzo. Non posso allontanarmi di qui né con te né con qualsiasi altro. E chi volesse tentare di seguirmi perderebbe la sua e la mia vita. Fridolin era come ubriaco, non solo di lei, del suo corpo profumato, della sua bocca rossa e ardente, non solo dell'atmosfera di quel luogo, dei segreti voluttuosi che lo circondavano. Si sentiva ebbro e allo stesso tempo assetato di tutte le esperienze di quella notte, nessuna delle quali si era conclusa. Ebbro di se stesso e della sua audacia, della trasformazione che sentiva avvenire in sé. Sfiorò il velo che avvolgeva il capo della donna, quasi volesse toglierglielo. Lei gli fermò le mani. Una notte saltò in mente qualcuno di allontanare durante il ballo il velo dal viso di una di noi. Gli fu strappata la mascherina e fu cacciato a frustate. E la donna? Forse hai letto di una ragazza giovane e bella. È successo solo poche settimane fa, che si è avvelenata il giorno prima delle nozze. Fridolin ricordava persino il nome. Lo disse. Non si trattava di una ragazza di famiglia principesca che era stata fidanzata con un principe italiano. Ella annuì. A un tratto comparvero dei cavalieri. Il più distinto di tutti, l'unico in costume bianco. Con un inchino breve e cortese, ma allo stesso tempo imperioso, invitò a ballare la donna con cui Fridolin stava parlando. A Fridolin sembrò che la esitasse un istante, ma l'altro l'aveva già cinta alla vita e aveva raggiunto volteggiando le altre coppie che ballavano nella vicina sala illuminata. Fridolin si trovò solo e quella solitudine improvvisa lo assalì come un gelo. Si guardò intorno. In quel momento nessuno sembrava curarsi di lui. Forse c'era ancora un'ultima possibilità di allontanarsi incolume. Non riusciva a capire cosa mai lo tenesse, tuttavia inchiodato nel suo angolo, dove poteva per ora sentirsi inosservato. Il timore di una ritirata ingloriosa e un po' ridicola, il desiderio tormentoso e inappagato di quel meraviglioso corpo femminile, il cui profumo continuava a sfiorarlo. Oppure il pensiero che gli avvenimenti precedenti erano solo serviti a provare il suo coraggio e che alla fine gli sarebbe toccata in premio quella magnifica donna. Comunque si rendeva conto di non poter sopportare più a lungo quello stato di tensione e di doverne uscire sfidando ogni pericolo. Qualsiasi decisione prendesse, non poteva costargli la vita. Forse si trovava tra pazzi, forse tra libertini. Sicuramente non tra furfanti o delinquenti. Gli venne l'idea di avvicinarsi a loro, confermare di essere un intruso e dichiararsi pronto a risolvere la questione secondo il codice d'onore. Solo così, con una specie di finale maestoso, poteva concludersi quella notte, se doveva significare qualcosa di più di una vaga e confusa successione di avventure malinconiche, squallide, ridicole e lascive, nessuna delle quali era stata tuttavia vissuta fino in fondo. E con un sospiro di sollievo si accinse ad attuare il suo proposito. Ma in quell'attimo, qualcuno accanto a lui mormorò. Parola d'ordine. Un cavaliere nero gli si era avvicinato all'improvviso e poiché Fridolin non aveva risposto subito, ripeté la domanda. Danimarca, disse Fridolin. Giusto, signore. Questa è la parola d'ordine d'ingresso. E quella interna, se è lecito. Fridolin taceva. Non vuole avere la bontà di dirci la parola d'ordine della casa? Aggiunse con tono tagliente. Fridolin si strinse nelle spalle. L'altro avanzò al centro della sala, alzò la mano, il pianoforte tacque, il ballo si interruppe. Si avvicinarono altri due cavalieri, l'uno in giallo, l'altro in rosso. Parola d'ordine, signore, dissero simultaneamente. L'ho dimenticata, rispose Fridolin con un sorriso vuoto e si sentì tranquillo. È una disgrazia, disse l'uomo in giallo. Aver dimenticato la parola d'ordine equivale per noi a non averla mai saputa. Affluirono in sala gli altri uomini in maschera. Fridolin era il solo in abito da monaco fra cavalieri variopinti. Giù la maschera, dissero alcuni simultaneamente. Fridolin allungò le braccia come per proteggersi. Essere il solo a viso scoperto fra gli altri mascherati gli sarebbe sembrato mille volte peggio che trovarsi improvvisamente nudo fra gente vestita. E con voce decisa disse: «Se qualcuno dei signori dovesse sentirsi offeso nel suo onore per la mia presenza qui, mi dichiaro pronto a dargli soddisfazione nella maniera consueta. Ma toglierò la mascherina solo se tutti loro faranno altrettanto». «Qui non si tratta di soddisfazione», disse il cavaliere in rosso che finora non aveva ancora parlato. «Ma di castigo. Giù la maschera!» Ingiunse di nuovo un altro con voce chiara e insolente che ricordò a Fridolin il tono di comando di un ufficiale. «Vogliamo dirle in faccia e non sulla maschera ciò che l'attende!» «Non me la tolgo!» disse Fridolin in tono ancora più drastico. «E guai a chi osa toccarmi!» Un braccio si protese a un tratto verso il suo viso come per strappargli la maschera quando, improvvisamente, una delle porte si aprì. E comparve una donna sulla cui identità Fridolin non poteva avere dubbi. Era in costume da suora, così come l'aveva vista la prima volta. Ma dietro di lei, nella sala sgargiante di luci, si potevano vedere le altre, nude, i volti velati, pigiate fra loro e mute, una schiera impaurita. La porta si richiuse subito. «Lasciatelo», disse la suora. «Sono pronta a riscattarlo». Ci fu un silenzio breve e profondo, come se fosse accaduto qualcosa di immane. Poi il cavaliere nero, che aveva chiesto per primo a Fridolin la parola d'ordine, si rivolse alla monaca dicendo: «Conosci le conseguenze di questo tuo atto?» «Le conosco». Come un profondo sospiro di sollievo attraversò la sala. «Lei è libero», disse il cavaliere a Fridolin. «Abbandoni subito questa casa e si guardi bene dall'indagare oltre sui segreti che ha cercato di penetrare. Se dovesse tentare di mettere qualcuno sulle nostre tracce, riesca o no il tentativo, lei sarebbe perduto». Fridolin era immobile. «In che modo? Questa donna dovrebbe riscattarmi», chiese. Nessuna risposta. Alcune braccia indicarono la porta, facendogli capire che doveva allontanarsi senza indugi. Fridolin scosse la testa. «Mi infliggano la pena che vogliono, signori. Non tollererò che un altro essere umano paghi per me». «Non potrebbe più mutare la sorte di questa donna», disse allora pacatamente il cavaliere nero. «Quando qui si è preso un impegno, non si può più tornare indietro». La monaca annuì piano, come a confermare. «Va», disse a Fridolin. «No», rispose questi alzando la voce. «La vita non ha più valore per me. se devo andar via di qui senza di te. Non chiedo d'onde vieni, né chi sei. Che può importare loro, miei sconosciuti signori, recitare fino in fondo questa commedia carnevalesca, anche se mira ad avere un finale serio? Chiunque loro siano, signori, conducono comunque anche un'altra vita, diversa da questa. Io però non recito alcuna commedia, neanche stasera. E se finora sono stato costretto a farlo, adesso smetto. Sento di essermi imbattuto in un destino che non ha più nulla a che fare con questa mascherata. Rivelerò loro il mio nome, mi toglierò la maschera prendendo su di me tutte le conseguenze. Guardati dal farlo! Esclamò la monaca. Ti perderesti senza salvarmi. Va! E rivolta agli altri. Eccomi. Sono vostra. Di tutti. Il costume scuro scivolò via come d'incanto. La donna apparve in tutto lo splendore del suo corpo bianco. Afferrò il velo che le cingeva la fronte, il capo e il collo e se ne liberò con un meraviglioso gesto circolare. Il velo si posò a terra, mentre i capelli scuri le cadevano sulle spalle, sul seno e sui fianchi, ma prima ancora di poter cogliere l'immagine del suo viso, Fridolin fu afferrato da braccia robuste, trascinato via e spinto verso una porta. Un attimo dopo era nell'atrio. La porta si richiuse alle sue spalle, un servitore mascherato gli portò la pelliccia e lo aiutò ad indossarla mentre il portone si apriva. Si allontanò in fretta come spinto da una forza invisibile. Si trovò in strada. La luce dietro di lui si spense. Si guardò intorno e scorse la casa silenziosa con le finestre chiuse da cui non trapelava alcun lume. Bisogna che mi fissi bene in mente ogni cosa. Pensò innanzitutto. Devo ritrovare la casa. Il resto si vedrà dopo. Ad alta voce, Marco Foschi ha letto Doppio sogno di Arthur Schnitzler, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it